Ieri sera, sul giornale che ho comprato, ho visto un bell'articolo di fondo. Non c'era niente, ma non vi nascondo che l'affare m'ha molto interessato. Che quando vedo dei pensieri in bianco, trovo che son d'accordo e non mi stanco. Se c'è una cosa un po' compromettente, la censura sopprime le parole, mette i puntini e lascia quelle sole dove il lettore non capisce niente, ma basta un po' di pratica per dire come le frasi debbono finire. Ier sera ho letto sulla cresta del sopra la punta di verso la valle, i bersaglieri sono scesi dalle e i bavaresi l'hanno preso nell'affare oscuro. Ma ci siamo intesi? Dove l'avranno preso i bavaresi? Trovo che in fondo è un bel provvedimento e sarebbe nel massimo interesse seppure nei discorsi si potesse far la censura del ragionamento, dire le cose per metà, dirle e non dirle, fingere di capire e non capirle. Se per esempio vi dicessi che tutte le settimane vado dal mi metto sul e subito mi fa quattro puntini ed io le faccio le mi spiegherei benissimo, però voi che ci capireste, un par di cuochi nessuno s'accorge a prima vista se vado da un amante o da un callista. Perciò, signore e signori, sono davvero spiacente che vi siate incomodati per venire sin qui, poiché devo annunciarvi con gran dolore che a causa di tutti questi avvenimenti la rivista, disgraziatamente, andrà in scena. Tanto più che a recitarla c'è un imbecille come me e a scriverla un amico mio con il cervello a prezzi popolari e la logica in sciopero, ma io vi garantisco che farò di tutto per annoiarvi. Anzi, sono venuto fuori per questo e vi confesso, ma non lo dite a nessuno, che io sono il prologo. Prologo arriva sempre prima di tutti. Entra per primo nelle stanze e vi può fare quello che gli piace. Quando mi nacqui, mia madre nemmeno se ne accorse. Manco era entrata in travaglio che io già ostravo dalle braccia dell'infermiera e gli facevo l'occhi dorci e lei disse: ma come, così presto? E io le dissi: e questo è soltanto il prologo, e mi chiamò così. Da ragazzino, quando mi chiamava per la cena dal balcone, urlava a gran voce: prologo, prologo, spicciate che se fa buio! Manco s'era girata, io stavo già a tavola, avevo già spolverato tutto quello che c'era nel piatto e gli dicevo: tutto qui. Comunque capirete che non c'è solo vantaggio a venir prima, soprattutto con le amanti. Arrivo sempre troppo presto agli appuntamenti. Sto lì che aspetto, aspetto, aspetto, e quando finalmente vedo la donna mia che sta venendo, io sto già a metà della sigaretta. Prologo non è un uomo felice, ha da dir tutto all'inizio e poi sparisce. E voi lo dimenticate. Mio fratello, epilogo, lui sì che è felice. A lui se lo ricordano tutti, lo amano tutti, perché è arrivato per ultimo e gli ultimi si sa. Quando esci dal teatro, mica ti ricordi de prologo che ha cercato di spiegarti tutto. No, ti ricordi solo di epilogo, ma che ce vo'? A quel punto sono tutti morti, gli è basta di buonanotte giù il sipario e tutti gli battono le mani. Ma voi siete fatti così. Vi interessa solo l'epilogo, la soluzione, la conclusione. Dei problemi non vi importa niente. I problemi sono tutti per prologo. E per quei due o tre che non si stanno ancora aggiustare la giacca sulle gambe a guardare chi gli sta intorno a di facevo meglio a stamma a casa. Ma tant'è. Prologo ha parlato. Eppure se non l'avete sentito, ormai è partito tutto. E una volta partito vi conviene restare. Vi aspetta epilogo. E buonanotte Arsicchio. Allora per cominciare, comincio da principio. Fa freddo. Allungo una mano per prendere qualcosa in mano, non trovo niente, soltanto freddo. Freddo di gennaio, beh, freddo che può fare Roma. Il freddo a Roma è come i romani, a questo prezzo, questo so fare. Allora quando allungo una mano per vedere che c'è, trovo soltanto freddo. Un po' di freddo, ma mi basta per non uscire. E allora io però devo, c'è chi mi aspetta, mamma mi aspetta. E allora lo faccio per lei. Esco le mani, esco i piedi, esco tutto me stesso e là mi sono nato. E con me il motore a scoppio. Io e la macchina siamo nati insieme, sì, ce lo sapevate. E insieme abbiamo cominciato a fare un poco di cagnaro. E così scoppiettando, scoppiettando, il secolo ci ha avuto il tempo di finire. Adesso un secolo non è che finisce proprio quando deve finire. Ci sono delle volte che finisce prima, delle volte che finisce dopo. Ci sono delle volte che ti sembra finito talmente tanto prima che pensi, evviva, è già domani! Però ci stanno delle cose che ti fanno sentire talmente tanto a ieri che pensi che questa cosa del tempo, degli anni che passano, è proprio uno scherzo brutto che ci facciamo da soli. Vabbè, com'è come non è, mi sono nato. Roma mi ha salutato, gli ho risposto grazie. Via Giulia a quel tempo era tutta quanta lastricata ad escrementi de cavallo, segno che ci passava buona gente. Il biondo Tevere era un passo e già mi chiamava: a Ettore, spicciate, che c'è da fa? E allora feci. Da ragazzino potevo avere 11 o 12 anni. Appena vedevo un funerale, subito m'accodavo al corteo, mi facevo largo tra la gente, arrivavo vicino ai parenti del morto e assumevo un'aria afflitta e mi commuovevo fino alle lacrime e tutti intorno che lamentavano: ma guarda quel povero ragazzino, quando mi fa pena, ma chi sarà? Sarà nipote? Ma no, deve essere figlio. E non c'aveva figli, e sarà nipote? Ma no, ma guarda come piagni, sarà il figlio della sorella, sarà il figlio del portiere, sarà il figlio della serva, ma insomma di chi è figlio? E sarà il figlio della colpa? Adesso tutte queste cose non è che le dicevano veramente, io mi immaginavo che le dicessero. Ma perché? Perché, signori miei, facevo tutto questo? Mi divertivo a mettermi sulla schiena una cassa vuota e me ne andavo così barcollante per il gran peso, facevo l'occhi strabuzzati per la fatica e tutti intorno che si lamentavano: ma guarda quel ragazzino, quanto mi fa pena, ma bisogna da essere gente senza cuore a farlo andare in giro con tutto quel peso sul groppone. Ma perché, signori miei, perché facevo tutto questo? Finzione, pazzia, alienazione, paranoia, noia, demenza, impudenza, inclemenza, imprudenza, abbiate pazienza, no! Facevo teatro. Il successo maggiore lo ottenevo quando riuscivo a convincere gli altri di ciò che non era. Facevo la parte, studiavo, inclinavo la mano, spezzavo il polso, piegavo il ginocchio, piegavo la testa, mollavo il braccio, spezzavo ginocchia, ossa, tutto in là. La parte era fatta. Forse questo è uno dei tanti motivi per cui non mi sono mai fidato troppo delle scuole di recitazione. Eccolo lì. Eccolo lì. Un ragazzino di 13 anni che gioca a Nizza. E c'è sta anche Attiliuccio. L'amichetto mio, col suo bastone rubato all'orto botanico, sì, mezzo manico de scopa per gioca a Nizza. E già non fa più freddo, no, anzi fa caldo a Roma d'estate. Poi quando giochi cori, urli, strilli, meni, fa caldo, fa tanto caldo. E dai a Tiriuccio, dai che tocca a te, a chi tocca in sengrugna. E dai, dai a Tiriuccio, tira, tirami una becca da questa, tiè. Ma rimortà tutti di tua, niente di mia, tutti di tua, niente di mia, tutti di tua, niente di mia. E dai a Tiriuccio, dai, e dai che tocca a te, tira, e tirami una tira, e tira a Tiriuccio, e tira, e tira. A Tiriu, io sono stanco. Pure io. E vabbè, allora riporta il bastone all'orto botanico che se ne andiamo a casa. E no! Dice a Tiriuccio. Il bastone è mio. Ma che stai a dire a Tiriuccio? Guarda che t'ho visto mentre rubavi all'orto botanico. Dai, riporta quel bastone che se ne andiamo. No! Insiste a Tiriuccio. Il bastone è mio! A Tiriuccio, ma che stai a dire? Dammi quel bastone! No! T'ho detto dammi quel bastone a Tiriuccio! No! Dammi quel bastone, guarda che t'ammazzo! È mio il bastone, guarda che t'ammazzo! Gli vado addosso, sganassoni, carci, urli, strilli, pugni in faccia. Riesco a piar bastone, ma quello vola per aria e va a finire sopra all'albero. Allora mi arrampico come primo per ripigliarlo, lo tengo con la mano, ma niente, mi scappa e quello cade dritto per dritto sopra il cranio di Tiriuccio. Oddio mamma, urli, strilli, sangue dappertutto. Oddio mamma, aiuto! A Tiriuccio perde i sensi e io perdo tutto. Da lontano arriva una frotta di gente inviperita. Ragazzi, guarda che t'ho visto mentre gli menavi, bella prodezza! Chiamate le guardie! Chiamate le guardie! Oddio, cori, cori d'estate a Roma, cori che fa caldo, cori! Poi quando scappi il caldo entra dentro la bocca, dentro la gola, dentro la milza, cori, scappi, fa caldo, fa tanto caldo! E insomma, a Tiriuccio finisce all'ospedale e io finisco rinchiuso al giardino d'infanzia in attesa di giudizio. C'è chi dice che son prepotente perché son bullo dal gagliardo e bello, ma non mi importa niente, non mi serve niente, chi può parlare con me cacci il cortello. Io so conosciuto ogni commissariato appunto a Trevi, al Viminale, all'isola, ci ho fatto il noviziato, adesso ognuno mi ha da rispettare. Chi è che non conosce Gigi il bullo? Ne ha parlato tanto il messaggero di Cogni, sempre è vero, non dico impunità. Si nomini Gigetto Pellurioni, la gente ha da tremà, ce n'ho mannati tanti all'ospedale, ma tanti che se sa, zazza! Oh, e poi che non ha letto sul giornale, sul messaggero, sul giornale d'Italia e su tutti gli altri giornali di Roma e dell'altri paesi i ferimenti del solito sconosciuto? Ma il solito sconosciuto chi era? Ero io, sono sempre io il solito ignoto da notte, io sono ammonito e sorvegliato, sono stato 12 o 13 volte carcerato al manicomio criminale, che mi vergogno a dirlo, non anzi, me ne vanto. Eppure per questo che i ragazzi mi vanno bene, perché sanno che c'ho un po' di fegato. A me mi hanno lasciato a perdere perché io puzzo, e puzzo pure forti. Io divento una pecorella solo quando vedo la mia ragazza, si chiama Annunziatina la Fardona, e tutte le sere tra Rusco e Brusco, le Farronne al Farrisco, vado sotto le finestre di casa sua e canto sta canzone qui che boh, voglio far sentire. Attacca carci tu. Affacciati al barcone, o grugno sfranto, del bene mio conosci il sentimento. Del bene mio conosci il sentimento. Tu pagami la cena, chi adamo tanto. Una sera per Bettina la zinnona, affrontai i rivali in sesa quanti. Se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrabbimo, se incontrab se incontrassimo giù per Tordinona e io gli dissi: fatevi avanti che li ricacci e godo, mi voglio fare una panza uno per uno da farla diventare uno scolabrodo. Gingetto non ha paura di nessuno, ma sono buttato in mezzo col cortello, li volevo a pezzi tutti quanti, ma quelli lì erano tanti e mi toccò abbozzare. Ci ho preso, è vero, qualche cortellata, ma l'ho lasciati andare, pure perché la squadra era passata, non li potetti fa. Zia, zia. Si boia cianfamoni, carognoni, ammazzarono il morto, s'approfittarono di me perché ero solo, me si buttarono addosso 500 e mi ridussero in San Lazzaro, che al pronto soccorso ci vollero 10 numeretti di fir de ferro, pari cucimme tutto. Ma vanno da ricapitare. Il primo che mi ricapita davanti gli do un carzo in panza da falla rivancello, che si non passa un aviatore con una pagnottella imbottita da morire di fame, quanto è veri Dio. Che poi in quel momento passava pure il signor delegato da polizia, col quale c'è sta, come dire, una specie d'incompatibilità di carattere, perché dice che non lavoro, che frequento cattive amicizie. E ci ha provato a lavorare, mi ero messo in società con un amico mio che c'aveva una fabbrica di letti in ferro vuoto. Lui ci metteva il ferro, io ci mettevo il vuoto. E un amico carissimo ce l'avevo, come no, che mo però l'hanno messo in carcere perché dice ammazzata la moglie, ha fatto a pezzi. E lei io diceva sempre: amore mio, io t'amo tanto che per te mi farebbe fa pezzi. Lui ce l'ha fatta, hanno messo in carcere, ma che giustizia questa. L'altro giorno a me mi hanno carcerato invece perché dice che ho rubato una forma di formaggio. Ah, vuoi dar pizzicarolo? C'è stava un cartello tanto con su scritto formaggio da grattare. Muso grattarlo. L'altro giorno, sempre per parlare di giustizia, vado al bar per piammi una tazzina di caffè in grazia di Dio per riscaldarmi la bocca do stomaco, indulire un caffè detto da un uomo come me senza avergli fatto niente di male. E come mai così chiaro? Dice la tassa sul lusso. E stavo vestita così. Ma un'altra volta ci voglio annacco con una foglia di fico e voglio vedere quanto mi mette. A riattacca carcito che se ne andiamo. C'avete i ricetti fatti a molla, rento c'è il pidocchietto che ci balla, rento c'è il pidocchietto che ci balla, la cimice ci fa la sentinella. Così ho cominciato a 15 anni, con 4 scudi e una lettera, sì, 4 scudi, pagando per fare teatro, a Campagnano, vicino Roma, appena uscito dal giardino d'infanzia. 15 anni, 4 scudi e una lettera. Io me lo ricordo il teatro de Campagnano, appena sono arrivato e l'ho visto. Quel teatro era un granaio, brutto, vecchio, freddo come niente, brutto, vecchio e freddo. 15 anni, 4 scudi e una lettera per cominciare. E ho finalmente messo piede sopra l'asse del palcoscenico. Solo che quella si è ribaltata, si vede che era messa male, come tutto l'ovile, insomma, sì, il granaio, insomma, il teatro. Così, ci ho messo il piede giù, sono finito di sotto. Giù, sono finito sotto al palcoscenico, capito? Giù, più giù, sono sparito, giù, più giù, con la caviglia che mi faceva male, giù, più giù, piagnevo dal dolore, giù, più giù, mentre il pubblico si sganasciava dalle risate, urlava ancora, ancora bis, e io lì sotto, giù, più giù, che mi tenevo la caviglia dolorante, mentre ancora bisse, cominciava il mio destino. E se vede che ero votato per l'arte comica. Nella mia stanzetta a Campagnano m'aspettava un certo Dorino De Muffa, che giocava a nisconnarella con una puzzetta di letame che veniva giù dal cortile. De Bono, c'è stava solo il silenzio, così che mi consultai con lui. Shhh. Boom! Così, giù, più giù! Il pubblico rise, gli attori risero, il capocomico poi rideva a crepapelle. 15 anni, 4 scudi e una lettera per cominciare. La sera, dopo lo spettacolo, il capocomico portava tutti quanti fuori a cena e pagava la cena per tutti. Tranne che per me. Io no. Io il conto me lo dovevo pagare da solo. 15 anni. Ah, oh, ma mi dicevo, ma io sono stato bravo e il pubblico ride tutte le sere. Ma allora, allora perché nessuno me paga? 4 scudi per cominciare. Ah, so ormai. Ma a me no. A me poi, quando me pagate? Pagati? Ma che sei scemo? Ma chi te conosce, chi t'ha mai visto, chi t'ha cercato? Ma guarda che qua c'è sta una lira, ne hai capito? Anzi, pensa che io contavo su di te, tiè. E una lettera. Carissimo Tabanelli, tra qualche giorno ti vedrai arrivare a Campagnano il giovane attore Ettore Petrolini, un fanaticone per lavorare sulle scene. Per quello che ti costerà, puoi anche scritturarlo. Non solo non gli darai nulla, ma all'occorrenza potrà fornirti lui qualcosa, perché figlio di gente con qualche soldarello. Ricordati di me, voglimi bene, punto. Sono tanto contento che nessuno mi abbia mai insegnato a recitare, perché così, non sapendo recitare, recito benissimo. E poi Roma, piazza Guglielmo Pepe. Piazza Guglielmo Pepe a quel tempo era una cozzaglia di vagabondi e poveri guitti, un ricettacolo de passatempi per tutti i gusti, tiro a bersaglio, museo anatomico, carosello e teatro di galli che cantavano e ballavano sopra lastroni arroventati di metallo. Non si lasciano sfuggire l'occasione, signori, di vedere da vicino le bestie più rare e più antropofaghe di tutti i paesi del mondo. Entrino e vedranno la tigre azzurra in miniatura, il leone cornuto della foresta vergine, duri di menta, grattachecchi, un soldo, due bicchieri. Io mi vergogno per voi, o non avete cuore, o non avete quadrini da me, le caro 20, le caro 10, le caro ancora quanto ve lo metto. Signore e signori, quella che qui vedete è una sonnambola, con ciò sia cosa che, per un filomeno ipignotico, essa va a indovinare qualsiasi segreto di persona, sia uomo, donna, ragazza o maritabile, se signori tutto indovina, il passato, il presente e l'avvenire, se avete qualche parente all'ospitale o in galera, o se la vostra fidanzata vi sta facendo qualche marachella. Una vita allegra, selvaggia, guitta, al teatro Iovinelli a Piazza Pepe, il pubblico magnava le fusaglie e tirava le gocce sopra il palcoscenico, al lume di certe lampene che il fumo spanneva dappertutto, un odore di bottega di friggitore. E poi caffè concerto con la consumazione obbligatoria. Ho lasciato le foche sapienti, le sirene del mare e la donna barbuta per le canzonettiste deliziosamente ignoranti, donnine carine e cretine. Ho imparato in questa mia esperienza a sondare la stupidità, a vivisezionare l'idiozia, ad anatomizzare la cretineria del prossimo per arricchire il mio museo della cretineria. Ormai io non profittavo più dello spazio vuoto del pubblico. Io lo creavo! E non per riempirlo, ma per tenere l'uditorio in quello stato di esaltazione in cui qualsiasi cosa si dica finisce per avere un senso o non averne affatto. Più stupidi di così si muore. Il mio obiettivo era ormai la creazione dell'imbecille di statura ciclopica. Vi voglio raccontare la storiella intorno a Beniamino ed Isabella. Narrarvi voglio il raccontino intorno ad Isabella e Beniamino. Era Isabella figlia un contadino ed era un oste figlio Beniamino. Avevano la casa assai vicino, tanto Isabella quanto Beniamino. Vedendola sì candida e sì bella, il cuor di Beniamino amò Isabella, ed Isabella diede il cuoricino e la sua fede tutta a Beniamino. Ma Beniamino astuto disse: oh bella, perché non ci sposiamo dolce Isabella? E sposarono Isabella e Beniamino, ed ebbero in compenso un marmocchino. E la nutrice disse ad Isabella: costui sarà la vostra buona stella. Ma disse preoccupato Beniamino: bisogna battezzar questo piccino. Andarono dal parroco vicino, tanto Isabella quanto Beniamino. E il parroco che stava alla cappella guardò prima Beniamino e poi Isabella, e disse: in verità questo piccino somiglia ad Isabella e Beniamino. Ed ebbe così fine la storiella intorno a Beniamino ed Isabella, ed ebbe così fine il raccontino intorno ad Isabella e Beniamino. È finita. I signori sono forse stupiti da tanta cretineria, ma questo avviene solo perché i signori non mi conoscono. Peggio per loro. Io conosco tutti, vedo tutti, fo tutti io. Io sono come Patè. Patè sta dappertutto, io sono Petit Patè. Io so scrivere, parlare, verseggiare, entrare, uscire, uscire, entrare, entrare, uscire, uscire, entrare, via così. Io col ramo matematica ho estratto 24 radici quadrate del cubo parallittico circolare ad angolo retto. Col ramo economia, col sociologia e col culinario ho inventato la pasta asciutta che si cuoce, si condisce e si mangia da sé. Il rasoio autobarbambo dilatatore, quello che nel momento in cui voi tagliate il pelo più basso a sinistra automaticamente vi cresce il più alto a destra. Il fucile aviofilo, quello che quando voi puntate il fucile da una parte l'uccello esce automaticamente dall'altra. Io so tutto, vedo tutto, fo tutto io. Io so anche fare dei drammi in 14 miliardi e 720 milioni diversi con rime baciate, sgravate e cantate. Ho scritto una tragedia in 72 atti grandi, altrettanti piccoli. Atto primo un morto e due feriti, atto secondo due morti e quattro feriti, atto terzo tre morti e sei feriti, ultimo atto tutti morti, gli attori, i comparsi, il suggeritore, gli spettatori, il regista e tutti quelli che passavano davanti al teatro. Ho scritto un trattato di astronomia comprovante che tutti i pianeti sono a forma di palla e la Terra gira intorno al Sole, la Luna gira intorno alla Terra al Sole, Giove gira intorno a Marte, la Luna e la Terra al Sole, o Marte intorno a Giove, la Luna e la Terra al Sole, non mi ricordo, ma è un enorme giramento di palle, palle astronomiche, si intende, io so tutto, vedo tutto, fo tutto io leggo nell'avvenire e nel preterito. Io so quel che è meglio per una donna, quel che desidera un uomo. So quante vibrazioni occorrono per fare un rumore, cosa si trova in mano quando si allunga una mano per prendere qualcosa in mano, dove va la luce quando si spegne, dove va il profumo quando svanisce, dove vado io se voi mi tirate le poltrone in faccia, dove vado io dal questore. Ma il questore chi è? Il capo della polizia, lo sapevate? No, io sì, perché io so tutto, vedo tutto, fo tutto io. Fin da bambino nelle braccia della balia iniziai a fare, feci e feci tutto da me. Io mi sgravai, io mi battezzai, io mi crisimai, io mi sposai, io mi incisi e mi risgravai di me stesso, perché io so tutto, vedo tutto, fo tutto io. Mariti automatici per signorine, signorine automatiche per seminaristi, membri per il Parlamento e fuori per avvocati. Io a cent'occhi, mille occhi vi sto davanti e vi guardo, vi volto le spalle e vi vedo lo stesso, perché ho cent'occhi, mille occhi, e dove mi toccate trovate un occhio, non ci credete, e ve lo mostro subito. Io sono convinto che per ottenere qualcosa nella vita occorre essere stati disgraziati. Quella disgrazia nella mia infanzia di finire in riformatorio ha segnato profondamente la mia vita e il mio carattere. Avevo 13 anni e mezzo. E ricordo che il direttore dell'epoca, per prima cosa, mi fece mettere in una cella, in una di quelle celle, per meditare, diceva lui. Io né meditai né capii. Dopo 8 giorni di segregazione fui trasferito nell'officina Sarti, dove tutto è grigio, dove tutto è colore della cenere. Io lo odio, il plumbeo, il colore del cattivo tempo. Le parole stesse sono sinonimo di tristezza, di depressione. Nel frattempo si stava preparando nel teatrino del riformatorio una recita. Io fui subito prescelto e il successo fu straordinario. E ne seguì una gazzarra intorno a me, sovrannomi, sberleffi, risate mal represse, il tutto in sordina, vale a dire più clamoroso e rumoroso. Questa improvvisa popolarità mi fruttò l'accusa di complicità in una rivolta. Io ovviamente non ne sapevo niente, ma il mio stupore fu preso per simulazione. E così finì di nuovo. Il processo mi venne fatto nella cella stessa. Il capoguardia era l'accusa, il direttore del riformatorio il presidente, e alla difesa ci misero il cappellano, che per difendermi disse che in fondo lo facevo bene il commediante. Già, sentenza, un mese di rigore, i primi 10 giorni a pane e acqua. Io all'inizio non avevo capito bene, ma poi quando mi chiusero dietro la porta io iniziai a piangere, a urlare, sbattevo contro le pareti, la porta, invocavo la giustizia, mia madre! In quel caos venne proprio lui, il direttore del riformatorio, e mi sembra ancora di vederli quegli occhietti che spuncano dalla fessura nella porta. Oh mamma mia, una porta con l'occhi, ma è terribile, no? Ebbi paura e urlai. E quando si ha paura si urlano, per non sentirsi soli. Al che il direttore fece chiamare altre guardie, che si presentarono con una camicia di tela di vele con le maniche lunghissime che furono avvoltolate attorno ai miei 13 anni e mezzo di carne. Terminata l'operazione disse: così ti si calmeranno i nervi, commediante. Avevo letto sulla parete della cella questa sentenza: contro la forza la ragion non basta, vince la forza e la ragion contrasta. Rimasi tutta la notte in quella cella con i miei 2 compagni. Ci fecero sapere che il mattino dopo saremmo stati trasferiti in un riformatorio di Forlì. Ci portarono fuori all'alba, addirittura in catene. I miei compagni non capivano molto, ma io sì. Io capivo tutto e mi adattavo perfettamente alla situazione. Apparivo vecchio, stanco, malato, colpevole. Una volta arrivati a Forlì, fummo accolti con quell'indifferenza che perlomeno allontana il sentimento di paura. Non ci presentarono nemmeno al direttore e così rimanemmo lì senza che ci facessero fare la meditazione. Se sapessero che risultati danno queste meditazioni forzate. Un cervello che pensa finisce per odiare. Io sono convinto che è morto un attore, tutto muore con lui. E siccome io amo la longevità, penso che se mi defungo, quando si leggeranno i miei libri, tornerò a rivivere. E se fossi convinto che quando si leggerà di me, io tornerò a sentire. Ma vi sembra poco? Anche se fosse un'illusione. Non mi sono mai vantato dei miei amori. Non c'è molto di cui vantarsi. Ho 32 bellissimi denti attaccati su 32 fortissime radici. Mozzico discretamente. Sono cattolico, apostolico, romano. Non mi tingo i capelli, non mi tingerò mai. Non amo gli spilli negli occhi, fulmini in testa e la carta moschicida. Ah, e stimo i quadrini per quello che valeno. I quadrini sono buoni servitori e cattivi padroni. Per 5 anni la critica mi ha vituperato e da qualche decennio mi esalta. Io dico grazie! E senza sarcasmo, perché sono convinto che la carriera di un grande attore sia divisa in 3 momenti. Nel primo ci si lascia prendere in giro da tutti. Nel secondo si prendono in giro tutti. E nel terzo se sta a guardare l'altri che si pieno in giro tra di loro. Io non ho ancora capito in che periodo mi trovo. Non mi inchino nella vita e non faccio sberleffi. E faccio il possibile per passare inosservato. È difficile. E vi sembrerà incredibile, ma quando io per strada mi sento riconosciuto, passo momenti di vera mortificazione. E voglio spiegarvi anche perché la gente mi dà fastidio. Perché io non ci sono mai. Quei sorrisi sono soltanto la continuazione per l'ilarità goduta a teatro, per il tipo buffo che si è visto, per la scemenza che si è sentita. La gente ride e sorride solo perché ricorda d'aver riso e sorriso. Io vorrei che volgessero i loro sorrisi a me, a Petrolini, ma questo è impossibile. La colpa non è loro. No, la colpa è mia. Faccio teatro e basta. E vabbè, dai. Gastone è una satira efferrata al bell'attore consunto, smunto, completamente vuoto e senza orrore di se stesso. Gastone è l'artista cinematografico, il diseur, viveur, danseur, frequentatore dei baltabaren, dei cabaret, conquistatore di donne a getto continuo, uomo che emana fascino. Gastone è il grande artista, l'interprete del suo repertorio. Gastone è l'uomo rovinato dalla guerra, pallido di cipria e di vizio, incredibilmente stanco di tutto. Gastone è il 3 ore di buon umore, è il ridere, ridere, ridere. La gente è stanca di ridere. Li sentite, no? Quando escono dai teatri. Sono stato male dalle risate. Lo vedi? Ho riso fino alle lacrime. Lo vedi? Sono morto dalle risate. Lo vedi? Allora io ho deciso di inventare un nuovo genere. Esiste già il comico d'autore, no? Il grottesco, l'umoristico. E allora io ho deciso di inventare il comico riposatore, il comico anticomico, il comico che non fa ride nessuno. Gastone è il grande cantante di cabaret, è il grande creatore e interprete del suo repertorio. Creare vuol dire far nascere qualcosa che prima non c'era. Io provengo da una schiatta di inventori, quanta genialità nella mia famiglia. Mia madre, donna geniale, ha inventato me, non dico altro. E poi era una donna con un grande senso dell'economia, pensate, io mi chiamo Gastone, no? E lei mi chiamava Tone, per risparmiare il gas. Più stupidi di così si muore. Mio padre è anche grande inventore, ha inventato la macchina che serve per tagliare il burro, una cosa semplicissima, una sciocchezzuola, te la spiego subito. Si tratta di un filo di ferro teso, si aspetta che il burro sia morbido, si fa calare il filo di ferro sopra il burro. È finita. A me mi ha rovinato la guerra. Senza la guerra a quest'ora starei a Londra a fare il music hall, i londrini vanno pazzi per il mio stile. E invece, ad esempio, questa cosuccia che ho al polso è mia, il guanto bianco latte, me lo copiano tutti i comiciattoli di cabaret, è una cosuccia senza pretensione, ma è mia. Non l'ho nemmeno fatta registrare, è di pubblico dominio, altri avrebbero precisato ma de in Gastone, io non ci tengo e non ci tesi mai. Mio fratello è anche grande inventore, ha inventato la macchina che serve per cacciare le zanzare. Che vuoi sapere come funziona? Adesso lo spiego io come funziona. Funziona così, si prende questo aggeggino, che è formato da due pezzettini di legno montati sopra un saltaleone a carica, e lo si mette fuori dalla finestra così. Si carica il saltaleone e i pezzettini di legno emettono un sibilo così. Psss. Psss. Psss. La zanzara che entra nella stanza, convinta che sia il zanzaro che la sta richiamando, vola di corsa verso la finestra, si profitta del momento buono, si chiude la finestra. È finita. È decisamente finita. È irrimediabilmente finita. Gastone, sei davvero un bell'adone, Gastone, Gastone, Gastone, ho le donne a profusione e ne faccio collezione, Gastone, Gastone. Sono sempre ricercato per le firme più bislacche, perché sono ben calzato, perché porto bene il frac con la riga al pantalone, Gastone, Gastone. Tante mi ripetono sei elegante, bello, non ho niente nel cervello, raro, oh, io mi faccio pagar caro, oh, specialmente alla pensione, Gastone, Gastone. Oh. Oh. Hey. Oh. Oh. Ooh. Hey. Oh. Per chi non lo sapesse, da qualche tempo sono un po' in disordine con la salute. Niente di nuovo, no? Il solito malanno che di tanto in tanto si diverte a farmi una visitina, solo che questa volta è un po' più lunghetta. Quando ebbi l'onore di conoscerla, questa signora malattia si chiamava embolia flebite. Un medico che mi curava a quel tempo mi disse che di questa malattia, quando non si muore, si guarisce. Un altro medico che mi curava al tempo mi dava a mie spese di queste ricette. Non si muova, per carità, non si agiti, con la calma, con la pazienza, con la rassegnazione e supereremo tutto. E già, supereremo. Il medico, bravo e buono, dice supereremo perché concorre ai dolori del malato. E aggiungeva poi: non se muova, per carità di Dio, immobilità assoluta, non se muova, ne va della sua vita. Io non mi sono mosso. La sera dalla finestra è entrato un ladro mascherato, rivoltella alla mano, mi ha detto: sì, te muovi, sei non morto. Ci so, ma ha detto il dottore. Naturalmente quella volta la cosa finì lì. Certe cose non possono finire se non lì. Io rimasi a letto umiliato, più che malato. Calma e rassegnazione, immobilità e pazienza sono sentimenti bellissimi ma mortificativi, degni forse di una serva partoriente, ma non di me. Un medico mi ha spiegato, con l'abbondante terminologia del caso, che messa alla porta embolia è auspicabile fare la stessa cosa con flebite, come spero di fare con la signorina Anginetta, che da qualche tempo si diverte a tormentarmi. Ma io dico con Galeno che l'importante è non di guarire, ma di vivere e imparare a vivere con i propri mali. Una sera che il male mi tormentava particolarmente l'affanno, Io chiamai disperato un mio amico. Pronto? Pronto, Alcibiade, io non c'ho più nessuna fiducia nei medici che mi curano, ma a mer tuo, quello de n'altro non mi importa quale, voglio vedere una faccia nuova, voglio sentire che mi dice, va bene, disse Alcibiade, te lo vedrai arrivare a casa tra mezz'ora. Affannatissimo sempre, attesi. Dopo mezz'ora e qualche minuto si presentò a casa mia l'illustre professore Serafino Tenore. Scambiati i sorrisi d'uso, io gli domandai, sempre con l'affanno: «E adesso, caro professore, voglio proprio vedere che cosa mi conta». «Ah no!» disse lui. «Lei vorrà dire che cosa ha le canto». E attaccò: «Dai dolci affanni, compenso avrai, la tua salute rifiorirà!» E sparì come in una nuvola. Oh, però per qualche tempo mi sono sentito meglio. E adesso lo volete qualche aggiornamento sui numerosi mali che mi tormentano? Anginali, pettorali, polmonari, flebitici, non flebitici... Da qualche tempo sto seguendo un corso di malato saggio, ma ne frequento anche un altro, per essere promosso morto effettivo. Oh, sembra incredibile, ma ancora non ci riesco. E così nel frattempo mi convalescenzio. E durante il convalescenziario continuerò a scrivere di queste cosucce, dalle quali trasparirà, io spero, il succo del mio ingegno. Niente di grave, eh? Niente di solenne. Come tutto il lavoro. Un po' per Celia. Un po' per non morire. Oh, a questo punto la commedia sarebbe finita, in un modo, devo dire, un po' lacrimoso, un po' iconografico, ecco, oleografico. Insomma, tutti quei mezzucci che in teatro funzionano bene, che riescono ancora a far abbozzare il pubblico. Mezzucci di fattarelli che avvengono sulla scena, ma non nella vita, parliamoci chiaro, nella vita la morte arriva anche a metà di una frase a effetto. Allora, siccome io anche per radio mi lusingo di far stare a casa il mio pubblico soddisfatto, avrei preparato numerosi diversi finali per tutti i gusti in sequenza. Allora, quest'oggi, in occasione straordinaria radiofonica, vorrei svolgere il finale numero 18, prego. Bello e dintorno il rapido cadere delle morti energie che non han fine. Bello è nel cuore il lento soggiacere delle passioni, mentre in bianca il crini qualcosa sen va senza che mai faccia ritorno al vivere fatale. Volgiti indietro e la miseria udrai, la miseria che piange in sulle scale. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia, mentre l'altrui saluta, che a vederla così bene vestuta a 15 lire le si possa andare. Va per i cieli densi un nimbo scuro e dell'anima mia che le va dietro, dolcezza d'un tempo meno duro, durezza di più di mezzo metro, giù per le calli torturando i calli, le valli, gli avvalli e le convalli. Rammento te, mazza di San Giuseppe, quando l'etricia mia, quando vedrai Pape Satan, Pape Satana Leppe. Volgiti indietro e la miseria udrai, la miseria che piange in sulle scale. Commovente, è vero, è rotto questo mio cuore, è rotto e frale, è rotto, è rotto, è rotto, è rotto, è rotto, ed io me ne strapongo di sopra e di sotto, a stracci, a pezzi, a morsi, a cenci, a ciocchi, a minuzzoli, a pugni, a mani, a sacchi, a falde, a spoglie, a spolverini, a ciocchi, a spicchi, a foglie, a picchi, a pochi, a pacchi, a quadri, a cumbi, a tondi, a perle, a fiori, le donne, i cavalieri, l'arme e gli amori, nel mezzo del cammin di nostra vita. Arma la poppa e salpa verso il mondo, laddove chiederai: e lei quel tal signore che sedeva accanto a me sul tramvai, e questo amore per cui piangete, o donne, e lacrimate forte, che il re di Creta è condannato a morte presso la culla in dolce atto d'amore, all'ombra dei cipressi e dentro l'urne, se mi scappa chi mai la afferrerà? Amor che nullo ha amato, amar perdona, se tu le mani ormai ti sei lavate, ti consegno il mio cuore dentro una biscia floscia, si inguscia nella grassa ambascia, all'uscio dell'angoscia cresce d'esseri, pasce poscia pasce, pesce piglia quella biscia che in cuor freddo biscia. Tutto di verde mi voglio vestire, t'ore è partuto e sola t'ha lasciato, quando Rosina scende giù dal monte a mare chiaro ci sta una finestra dove ognuno ci fa una fermatina, e se ne va per la via vagabonda, allegra o moribonda, mesta o cogita bionda, o bionda o bella bionda, sei come il... Ce n'è un fiore, fiore del mare, che mi ricordi verso il primo amore, che sospiravi le canzoni mie, al mare intorno di te bucie. Canzone bella appassionate, che Romania mi ha ricordato, cantate solo per dispetto, ma con la smania per incorpretto, io non mi canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, se ne nessuna si innamora. Perché mi sento un friccicone nel cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi ce nasce un fiore, fiore di lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospiravi le canzoni mie, a mare in tonto di te bucie.